Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a quanti ci ascoltano. Questa sera parliamo di un libro che illustra un rapporto, il 16° rapporto sull'economia globale e l'Italia, curato dal Centro Einaudi, pubblicato da Guerini Associati nel libro dal titolo La crisi che non passa. E ne parliamo con il professor Mario De Ario. Buonasera, professore. Buonasera a lei. Mario De Ario insegna economia internazionale all'Università di Torino, editorialista economico della Stampa, è stato un indimenticato, posso dirlo, direttore del Sole 24 Ore, molti anni fa, ma è stato un po' il protagonista della svolta del Sole 24 Ore all'inizio degli anni 80. E questo libro, come dicevo, racconta il rapporto sull'economia globale d'Italia, il 16°, e si apre con una affermazione un po', diciamo così, dissacrante verso il mondo dell'economia. Dice: gli economisti non vivono una buona stampa in questo periodo. È così, professor De Ario? Ahimè, è così. Temo che sia la verità che tutti possono constatare. Gli economisti hanno perso prestigio, hanno perso autorità, non hanno delle vere ricette da proporre contro questa crisi e per di più i loro strumenti statistici di analisi tendono a essere molto appannati. Ecco, ma questo perché appunto sono gli strumenti che sono appannati o perché la crisi ha assunto una dimensione di irrazionalità in cui è difficile appunto comprendere dove siamo, dove andiamo, quali sono i fattori in gioco, come potranno essere appunto le scelte delle persone? È una crisi irrazionale? È una crisi irrazionale che deriva anche dal fatto che gli strumenti sono appannati. L'economia è cambiata molto fortemente. Oggi in un paese avanzato il 70% di quello che si produce sono dei beni invisibili, cioè sono dei servizi. La produzione industriale classica è ormai intorno al 25-30% quando va molto bene. A fronte di questa invisibilità c'è una difficoltà anche statistica di capire quanti sono, dove sono, e c'è anche una velocità di reazione diversa. Mentre per quanto riguarda un bene che si tocca, si compra magari a rate, eccetera, è possibile capire quale sarà l'evoluzione della domanda in diversi mesi, qui abbiamo dei prodotti, a cominciare da quelli finanziari, dove la domanda può crollare o andare alle stelle nel giro di minuti in tutto il mondo. Quindi abbiamo un compito molto difficile e ci troviamo lievemente spiazzati. Lei non fa previsioni, anzi ne fa quattro scenari all'inizio appunto di questo rapporto, in cui si passa dal primo scenario, che parla di futuro radioso, a uno scenario B, il compromesso inflazionistico, uno scenario C, il default programmato, lo scenario D, la tempesta perfetta, cioè dal massimo di ottimismo al massimo di pessimismo. E se dovesse dare una percentuale alle possibilità di riuscita di questi scenari, lo scenario ottimistico quante percentuale avrebbe? Direi poche. Lo scenario ottimistico è quello in cui sostanzialmente chiudiamo gli occhi e tutto ritorna come prima. La cosa importante di questo scenario è che individua il numero magico del 3%, che messo nei nostri modelli, simulando le nostre economie in avanti per 5-10 anni, ci dice che se riusciamo a fare quello, le difficoltà in qualche modo scompaiono da sole, cioè i debiti pubblici diventano meno pesanti, l'economia che cresce paga più tasse, insomma si riaggiusta tutto, ma gli darei relativamente poca probabilità. Il più probabile? Allora, il compromesso inflazionistico o il default programmato? Pensiamo che la tempesta perfetta possa magari essere messa in secondo piano. Sì, direi che il primo e l'ultimo sono così, esercizi di scuola per definire il campo. Certo. E poi i due più probabili sono quelli intermedi. Il compromesso programmato che cosa dice? Dice che magari non facciamo il 3%, facciamo il 2% con un 1% di inflazione, oppure facciamo il 5% con il 4% di inflazione. In sostanza è una gamma più che un'unica soluzione in cui c'è un po' di crescita e un po' di inflazione. Va meno bene della prima, però tutto sommato meglio che niente. Ecco, l'inflazione è certamente uno spettro in certe prospettive. Pensavamo di averla vinta, soprattutto con la moneta unica europea, con i bassi tassi di interesse. Invece adesso sta diventando quasi una soluzione di fronte al problema del debito che non si riesce a sciogliere. Purtroppo è così. Cioè, in fondo una delle soluzioni drastiche, radicali, dolorose, ma sicuramente efficace di questa crisi sarebbe quello in cui si stampa tanta moneta, gli americani ne stanno stampando veramente tanta, questa moneta fa salire i prezzi, chi si trova con dei crediti è penalizzato, certo. Ma l'economia riparte. Se si riuscisse a fare questo in maniera limitata, sarebbe forse la cura migliore. Il problema è che non abbiamo molti strumenti con cui controllare bene l'inflazione, abbiamo sempre paura che una volta che immettiamo un po' di inflazione nel sistema non sappiamo poi dove va a finire. Questa si moltiplica da sola e peraltro è anche un po' difficile provocare dell'inflazione in un momento di stagnazione in cui la domanda non c'è, in cui la domanda è molto carente, in cui appunto la legge classica della domanda e dell'offerta tiene bassi i prezzi. Ma il modo di provocarla naturalmente ci sarebbe, basterebbe fare dei deficit pubblici maggiori. Devo dire che anche la moneta stampata dagli americani indirettamente rischia di finire lì, perché il vero problema è che poca è andata all'economia americana che doveva tirare su il mondo, una gran parte è andata in speculazioni sulle materie prime, quindi abbiamo che il prezzo delle materie prime è salito, non tanto perché sia salita la domanda vera degli utilizzatori, ma perché è salita la domanda di questo come prodotto finanziario. Io compro adesso la produzione petrolifera che è uscita da 6 mesi, faccio una scommessa sul prezzo, se tutti scommettono come me il prezzo va su, quindi questo è quello che è largamente successo e per cui abbiamo qualche sintomo, per fortuna non molto, di quella che è la più brutta malattia dell'economia, cioè una certa stagnazione della produzione accompagnata all'inflazione, la famosa stagflation. Ecco, in questa prospettiva il mercato ha un po' fallito, cioè il mercato ha perso un po' la proprietà di misurare le cose reali, le cose concrete, perché è diventato più finanza che mercato di scambio e di produzione. Sì, direi che la, chiamiamola mania, ma in realtà la caratteristica del mercato attuale di voler misurare tutto in qualunque minuto della giornata istantaneamente, fare le operazioni istantanee, porta proprio a questo appiattimento sul presente, quindi a dimenticare tutto il resto e quindi queste valutazioni che con un mercato diversamente ordinato possono essere estremamente importanti perché ci segnalano le carenze, le scarsità, le cose da fare eccetera, se portato al parossismo attuale fanno un grave danno. Ecco, è per questo che lei ricorda come primo intervento da fare quello delle regole, quello di mettere delle regole che pongano dei limiti al mercato finanziario, alla speculazione, al fatto appunto di distorcere, come aveva accennato prima, il prezzo delle materie prime attraverso delle operazioni che non hanno riferimento con degli scambi reali. Certo, le faccio anche un altro esempio, la Grecia, la famosa Grecia, i titoli della Grecia in giro per il mondo sono circa 80 miliardi di dollari, che non è tra l'altro una grande cifra, ma le scommesse sul debito greco non sappiamo quante sono, ma sicuramente sono nell'ordine di qualche centinaio di miliardi di dollari. Allora, se la Grecia dovesse fallire, dichiarare l'insolvenza, che cosa succede in queste scommesse? Saranno veramente pagate oppure qualcuno che le ha emesse si trova in situazione molto difficile e può innescare veramente la crisi mondiale? Ecco l'instabilità di un mercato non regolato. Ecco, questo è certamente un grave problema, così come un problema può essere il fatto che l'America quest'anno si trova in un anno elettorale. Lei parla di ruolo cruciale degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti in un anno elettorale potranno avere un ruolo capace di, non tanto di risolvere i problemi, quanto di avviarne una soluzione? Io temo di no. Credo che gli Stati Uniti, la Banca Centrale Americana, in via normale non gioca mai contro il proprio governo. Quindi in questo momento, se Obama, come vuole la rielezione, sa che sarà rieletto se il numero di disoccupati scende a sufficienza e se l'economia dà segni visibili di ripartire, la Banca Centrale, nei limiti del lecito, della decenza, eccetera, farà di tutto perché questo avvenga. Quindi potremmo avere una spinta artificiale che peraltro funzionerà abbastanza male, ma che comunque ci porterà poi a fine anno in situazione veramente pericolosa. Quindi si conferma un po' il titolo del secondo capitolo di questo rapporto, dal vecchio ordine al nuovo disordine. E direi proprio di sì, non che il vecchio ordine sia totalmente da rimpiangere, sicuramente però questo nuovo disordine non sappiamo dove ci porta e alcuni degli esiti possibili sono francamente inquietanti. Ecco, non vorrei concludere con un esito inquietante, una piccola dose di ottimismo possiamo pure darla però, nel senso che ognuno di noi può fare la sua parte. È la crisi che non passa, è un titolo sul quale abbiamo discusso molto, perché molti sostenevano che non bisogna dare messaggi negativi, purtroppo è uscito esattamente nel momento in cui la crisi dava questi segni di persistenza. Che cosa succede adesso? Ma io le dico questo, 2 mesi fa si pensava a una crisi molto dura nel primo e secondo trimestre del 2012. Così dura che le cifre vere non le hanno ancora tirate fuori, nel senso che non gli piace insomma al mondo delle previsioni eccetera avere poi degli accenti troppo catastrofisti. State solo le parole di Christine Lagarde al Fondo Monetario, le parole anche del Presidente della Banca Centrale Europea che hanno sostanzialmente mosso in quest'ottica. I segnali che vengono dal mondo della produzione sono sì di crisi, ma meno dura di quello che ci aspettavamo. Sono segnali ancora labili, riguardano un poco le vendite di beni di consumo, riguardano qualche piccolo segno di investimento, non in Italia purtroppo, riguardano una Cina che vede diminuire la sua velocità di crociera, ma tutto sommato è un 8,5% all'anno invece di un 10,8% che era l'anno prima. Insomma, sembra che questo tessuto che non conosciamo bene si riveli un po' più resistente alle crisi di quello che temevamo. Ecco, grazie. Questo dobbiamo costruire. Grazie per questa piccola dose di ottimismo. È una crisi che non passa, ma a cui almeno possiamo sopravvivere e sperare di migliorare sicuramente in futuro. Grazie, professor Mario De Aglio. Abbiamo parlato del 16° rapporto sull'economia globale d'Italia curato dal Centro Einaudi, pubblicato da Guerini Associati in un libro di 200 pagine per il prezzo di 21 euro. Ringrazio anche Filippo Reggi in regia, Luca Cremonese e Stefania Tagliaferri in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.